1, 2, 3, Go Michael, go Michael, go Lorenzo, yeah. Go Lorenzo, Michael Franti, Lorenzo Giovanotti, yeah, my friend, my friend. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Dicevano che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so notare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a pelo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine coming down. Il battito del that's sole. That's the sound of sunshine coming down. Su di noi, su di noi, su di noi. What's up, man? You got a little work or 20 to lend. I open up my hand and said I'm glad to see they could take away my job, but not my friends, you see. And here I am, just waiting for this storm to pass me by. And that's the sound of sunshine, of sunshine coming down. Il battito del sole, il battito del sole, il battito del sole. Il sole, il battito del sole. Voglio stare dove state, anche quando ovunque c'era. La chitarra sulla spiaggia, il profumo di una vela. Il sole che mi scalda, le onde in movimento. Profumo di abbronzante che si espande nel vento. In the ocean, and the girl so sweet. So kick off your shoes and relax your feet. They say that miracles are never ceasing. And every single soul needs a little releasing. La radio che suona, un ritmo che rilassa. E tutto il meglio resta, e il peggio invece passa. Of sunshine coming down. Il battito del sole, il battito del sole, il battito del sole. And that's the sound of sunshine coming down. Il battito del sole, il battito del sole, il battito del sole. You're the one I wanna be with. Sei tu quella con cui voglio stare. You're the one I wanna be with. Quando il sole cade dietro il mare. You're the one I wanna be with. Sei tu quella con cui voglio stare. You're the one I wanna be with. Quando il sole cade dietro il mare. That's the sound of sunshine coming down. Il battito del sole, il battito del sole, il battito del sole. That's the sound of sunshine coming down. Il battito del sole.